Il beato Luigi Maria Palazzolo nasce nella città di Bergamo il 10 dicembre del 1827. Nasce in una famiglia benestante, molto agiata, e lui è l'ultimo di 8 fratelli e sarà anche l'unico a sopravvivere. In quel periodo, infatti, la mortalità infantile è molto diffusa e non si conoscono ancora né vaccinazioni né antibiotici. Nel frattempo, grazie all'insegnamento dei suoi genitori profondamente cristiani, quindi vivevano davvero il Vangelo, fin da bambino comprende e nutre un grande affetto e una squisita carità verso i più poveri, ed erano tanti allora. E il suo cuore, anche se piccolo, è già pronto a realizzare quella che sarà la sua chiamata e fin da allora se ne rivelano i segni. Ma anche il dolore, cari amici, la prova, bussano alla sua porta. Infatti a 10 anni resta orfano dell'amato papà e alcuni anni dopo perderà anche il fratello Aquilino, l'ultimo che gli era rimasto. Il Signore gli dà però la grazia in quegli anni di conoscere buoni sacerdoti ai quali lui affida la sua vita spirituale, vita orientata al sacerdozio fin da ragazzo. Era una chiamata fortissima questa di Gesù nei suoi confronti e il suo desiderio era quella di corrispondere. Così, dopo aver frequentato il ginnasio a Bergamo, nel 1844 entra in seminario e già si distingue, ci dice un compagno di studi di allora. Del seminario si distinse nella pietà, nella illibatezza dei suoi costumi, per schiettezza e ilarità di carattere e per un non so che di dolce e soave che aveva nel suo contegno, sicché tutti lo amavano, lo stimavano, e gli anni della sua vita da chierico e molti di quelli del suo sacerdozio si può dire che il Palazzolo li dedicò totalmente all'oratorio per aiutare i ragazzi, dove passava le ore del pomeriggio nei giorni feriali e tutta la festa, rubando poi al sonno buona parte della notte per dedicarlo allo studio. Infatti era in seminario, quindi doveva diventare sacerdote. E dopo qualche anno arriva anche il grande giorno. Dopo tanta preghiera, dopo tanta penitenza, il 23 giugno 1850, un giorno pieno di luce, di gioia, con il cuore colmo di felicità, il nostro Luigi Maria viene ordinato prete a soli 23 anni dal vescovo di Bergamo, Monsignor Gritti Morlacchi. Eppure avendo lui molte occasioni di affermarsi, fare carriera anche ecclesiastica, sia grazie alla sua spiccata sensibilità, ma anche a quelle che erano allora le notevoli disponibilità economiche della famiglia, sceglie invece, spiazzando un po' tutti, come suo campo di azione l'attività pastorale tra i giovani, ma tra i giovani soprattutto quelli che abitavano gli ambienti più poveri, più abbandonati. Proprio qui sente il desiderio di portare Gesù, di portare una speranza e si dedica senza risparmio non solo a questo, ma anche alla predicazione, a portare la parola. E la sua, cari amici, è una parola che illumina i cuori, a tal punto che i parroci cominciano a richiederlo e lo invitano a predicare, non solo nelle parrocchie di Bergamo, ma anche dell'intera diocesi. Al suo stile non dobbiamo pensare che fosse ampolloso, era invece semplice, un linguaggio concreto, ci viene detto, efficace, ma soprattutto, ecco la grande cosa, comprensibile a tutti. È un prete per i poveri e per i giovani in modo particolare. Viene testimoniato nel processo di beatificazione. Era molto caritatevole coi poveri e quando riceveva i regali dalla mamma o dai parenti, tutto dava ai poveri. La signora Ida Caffi depose dicendo: «La madre del Palazzolo spesso diceva alla mia mamma: "Mio figlio è un pazzo, pensi che ha dato il paletò, cioè il cappotto, ad un povero che era senza, qualche tempo fa, poi la camicia, un'altra volta le scarpe". Segue Gesù sulla via della carità e della povertà e vive i suoi primi anni di sacerdozio nella parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna, con l'apostolato proprio tra i ragazzi, presso l'oratorio che sorge in località La Foppa. Poi, qualche anno dopo, siamo nel 1855, a 28 anni, proprio per la grande stima che ricopre da parte dei suoi superiori, diventa anche rettore della chiesa di San Bernardino. Ma la sua missione non si ferma qui, cari amici. L'amore per Gesù è talmente grande che diventa un vulcano di carità. E allora diventa predicatore, dicevamo, nelle missioni, ma anche negli esercizi spirituali. Organizza il tempo libero dei suoi ragazzi, per loro inventa canovacci di commedie, soprattutto istituisce le scuole serali. Sa bene e vuole che i suoi giovani imparino per poi prendere un posto nella società. E pensate, il suo esempio è così trascinante che una quarantina di ragazzi del suo oratorio sceglieranno da lì a poco la via del sacerdozio. E qui, oltre a una catechesi accurata e a un sano divertimento, il nostro beato, Don Luigi Maria Palazzolo, tiene molto, moltissimo ai momenti di preghiera. Lui è devoto in modo particolare alla Madonna, verso cui nutre una grande tenerezza, e proprio da questo amore alla Madonna scaturisce una luce meravigliosa anche in quelli che sono, diciamo, le sue omelie, il suo coinvolgimento nei cuori. E veramente sa conquistare il cuore dei ragazzi, e non è facile, sono ragazzi abbandonati a se stessi, sulla strada, quindi sono ragazzi difficili. Ma sa conquistarli, dicevamo, e lo dice una delle testimonianze che vi leggo. Cercava, ci viene detto, di rendere amabile ai ragazzi la preghiera, in modo che non la prendessero come un peso, ma come il soddisfacimento di un bisogno dell'anima. Non teneva i ragazzi lungamente in chiesa, brevi le orazioni, ma sode, piene di amore, brevi discorsi, brevi le funzioni, non lunghe nemmeno le preparazioni ai sacramenti. E lui, questo beato, con un cuore, dicevamo, pieno di amore ardente per il Signore, lo contemplava in modo particolare sulla croce. Era attratto dal crocifisso. Proprio contemplandolo lì sulla croce, Luigi Maria si sente spinto a una povertà eroica, al servizio degli ultimi. Ecco come lui stesso descrive il suo stato d'animo che lo caratterizzerà per tutta la vita. Lui dice: ho sentito desiderio di non allontanarmi più dall'amorosissimo Dio. In questo giorno, celebrato la Santa Messa, vorrei sperare con devozione. Non so se nella Santa Messa o nella meditazione prima, mi si presentò alla mente che Gesù morì ignudo sulla croce e perciò sentii desiderio di povertà, di abbandonare tutto. Certo che accompagnato da un sentimento, non so se di ripugnanza o di timore, che poi supero pensando a Gesù ignudo sulla croce. E la povertà non è scelta semplicemente come un percorso ascetico, spirituale, ma come forma di amore per i poveri. Per quello lo fa, proprio di condivisione della loro vita. Vede in loro il volto di Gesù su questa terra. E pensate, dopo la morte dell'amatissima mamma nel 1862, Don Luigi Maria decide di abbandonare quella che è la sua confortevole casa e di andare ad abitare in una piccola e povera abitazione, proprio in mezzo agli ultimi, agli abbandonati, donando la sua vita al servizio dei ragazzi e alle opere di carità. E proprio qui, vivendo in questo ambiente, comprendendo le esigenze e l'aiuto enorme che poteva dare, non c'era nulla, nel 1864, 2 anni dopo, realizza la Pia Opera di Santa Dorotea, è un'associazione che si propone di assistere in modo particolare le ragazze più povere e abbandonate, quelle più a rischio, sulla strada. E allora apre l'oratorio per la gioventù femminile di quel quartiere, terribilmente povero e molto popolato. Sa però che il lavoro è molto e lui da solo non riesce. Allora chiama in aiuto dei collaboratori, delle collaboratrici, dei volontari. E ci dicono le testimonianze. Quella casetta destinata per l'oratorio femminile rimaneva tutta settimana oziosa e disabitata, quindi era la domenica praticamente che si popolava. E ci dice: non sarebbe stata cosa opportuna che uno o due delle maestre della Pia Opera, cioè due volontarie, di quelle libere da impegni di famiglia, stabilissero colà la propria abitazione, sicché la casa rimanesse aperta continuamente e servisse come di convegno alle altre, che vi si potessero recare o per consiglio o per altro bisogno spirituale o per loro stesse o per le ragazze loro affidate. E qui c'è una profezia del vescovo di Bergamo che disse: chissà poi che da quelle maestre là il Signore non voglia qualche cosa di più che non la tua opera. Ebbene, questa frase colpì al cuore il nostro beato e il suo biografo, Don Castellazzi, scrive: «Anche questa volta il palazzolo cominciò a riflettere su queste parole misteriose e quasi profetiche del suo vescovo e cominciò a pregare più ardentemente e a fare più grandi e aspre penitenze onde conoscere quale fosse in proposito il volere di Dio». E qui, cari amici, Don Luigi Maria Palazzolo comprende che il Signore lo sta chiamando non solo a creare un oratorio femminile, un'associazione, ma una grande opera, quella di dar vita addirittura ad una nuova congregazione che nasce per il bene e per l'aiuto della gioventù abbandonata a se stessa. Pensate quante anime ha salvato, e lui e le sue suore. L'idea, disse lui, è quella di fondare un'istituzione. La vita, perché già la stava pensando, no? La vita dovrebbe essere attiva e tutta spesa in favore della gioventù. La casa dell'istituto dovrebbe porgere la mano, per così dire, anche alla più opera di Santa Dorotea, giovandola con l'aprire un sicuro asilo nei giorni festivi alle giovinette, offrendo nei suoi ambiti ricreazione e cultura, a seconda che l'avvicendarsi dei tempi richiederanno. E qui inizia l'avventura delle suore e delle poverelle. Dice il suo biografo, Don Castellazzi, per il suo scopo, per il suo spirito, voleva gente alla mano, che non si tenesse a nessuna distanza dalla condizione di quelle ragazze alle quali egli intendeva provvedere, distinguendosene molto sì nella vita, ma poco nell'abito, poco nel tratto, gente infine che nella realtà e nell'apparenza vivesse povera in mezzo ai poveri. Cioè gente concreta, che avesse un cuore aperto. E per dare inizio alla nuova opera, la provvidenza lo guida a scoprire una giovane maestra, ed è e sarà la futura serva di Dio Teresa Gabrieli. Questa fu, ci viene detta la testimonianza, ci dice così: fu una donna assennata e pia, energica insieme e prudente, dotata di grande virtù, di zelo e abnegazione, amante della povertà e dei poveri, amante della gioventù e pratica nel modo di educarla, che univa in sé alla dovuta riservatezza e sodezza di costumi irreprensibili quella larghezza misurata che dona confidenza. Di fatto si dimostrò una donna di una fede meravigliosa, capace di cogliere, di condividere il carisma che mosse il nostro beato Palazzolo a raggiungere gli ultimi, più abbandonati, più poveri, e a donarsi con tutte le sue forze, con una vera carità. Testimonia a quella che allora era giovincella, che poi c'era Suor Caterina Broletti, dice, proprio all'inizio della congregazione, dice: ricordo che una sera il Palazzolo chiamò la signora Gabrieli Teresa, quindi la cofondatrice in questo caso, e me stessa, e ci condusse nella casa di Via Foppa, e ci fece un discorso sopra la povertà, l'umiltà e l'obbedienza. Ci fece inginocchiare davanti ad un'immagine della Madonna chiamata Mater Amabilis. Egli celebrò la Santa Messa e ci fece la Santa Comunione dicendo in ultimo: la provvidenza ci penserà, e c'era poco, la povertà anche lì non mancava, e ci consegnò le chiavi della casa. Ma ecco come lui stesso, come il Palazzolo, descrive in una nota dei suoi diari quella notte indimenticabile che è stata l'inizio della congregazione. Lui scrive: il giorno 22 maggio 1869, celebrata per tempo la Santa Messa nella chiesa dell'oratorio di San Filippo Neri, il sacerdote Luigi Palazzolo, in compagnia di Teresa Gabrieli, Caterina Broletti e Serafini Maria, si ritirarono nella stanza destinata per la chiesina della casa che si voleva fondare delle suore, delle poverelle di Santa Dorotea, e genuflesse innanzi all'immagine di Sacri Cuori di Gesù e di Maria, fecero le loro offerte e le loro promesse. Questo fu il principio della casa delle suore delle poverelle di Santa Dorotea. E proprio ha avuto inizio quindi la nuova famiglia religiosa, composta per i primi mesi dalla sola Teresa Gabrieli. Lui stende su un quadernetto anche un abbozzo di regola di quella che sarà la vita della congregazione. Un testo sobrio, ma anche chiaro e impegnativo. Lo scopo, dice Don Luigi Maria, è di adoperarsi in bene della gioventù femminile e ancor più delle povere orfanelle abbandonate. Voi pensate a quante bambine sulla strada che c'erano. Questo importa, che le suore delle poverelle mirino sempre e intendano come scopo principale dell'istituto ad aiutare alle fanciulle giovanette povere e soprattutto alle abbandonate. Stiano bene in avvertenza di non allontanarsi mai da questo fine, sotto qualsiasi titolo specioso di carità, anche se fosse più fiorita e più sublime. La carità delle suore, dice il nostro Beato, la carità delle suore e delle poverelle, è in primo luogo per le povere bambine, fanciulle o giovanette, le quali non trovano ricovero in altre istituzioni. Qui un altro sacerdote, Don Bernardino Gavazzeni, che ha vissuto accanto a questo apostolo della carità, anzi ha fatto suo il suo stile di vita e di servizio ai poveri, così testimonia. Conosco l'istituto delle suore e delle poverelle per averlo visto sorgere. Lo spirito è di somma povertà e obbedienza. Scopo: raccogliere orfanelle abbandonate e assistenza a domicilio degli ammalati poveri. Il palazzolo ha dato alla sua istituzione regole molto semplici. In un documento dove è espresso chiaramente il carisma della sua fondazione si legge: «Nella casa trovano rifugio e conforto tutti i tribolati, e la casa della misericordia. Non parole vane, non gentilezze superflue, ma pane, fuoco, ricovero, giusti consigli, aiuti opportuni». E ancora lui in una lettera ribadisce: fermi come rupi al nostro programma, cose semplici e spigolare quelle che i miei tutori lasciano indietro, cioè tutte quelle ragazze, quelle bambine, che aiutare quelle persone, quelle ragazze che la società aveva messo ai margini, quindi era come se non esistessero. E lui continua, sempre aperto alle urgenze dei più poveri, lo dice in modo particolare poi un'altra suora, suora Annunciata Maffei, ci dà un episodio. E dice così: una volta interrogai il venerabile fondatore perché non avesse nelle sue regole stabilito più esattamente le opere che il suo istituto dovesse abbracciare. Egli mi rispose: l'ho fatto apposta, perché voglio che le case del nostro istituto siano il centro di tutte le opere di carità e che le suore si dedichino, sempre con l'obbedienza di superiori, a qualunque opera di carità, tra i poveri, ospedali, ricoveri, prigioni, a tutto, quindi praticamente tutto il campo della carità. Nel frattempo la famiglia religiosa va gradualmente assumendo anche la sua fisionomia. Pur avendo chiaro lo scopo, cioè servire i più poveri in tutto e per tutto, la ricerca però della volontà di Dio per capire sempre meglio il cammino è sempre in atto. Prega per noi, dice un amico sacerdote, perché non sappiamo cosa voglia il Signore. Non so se voglia da noi un'istituzione anche per i poveri artigiani, preghiamo. Cioè, si pensava allora anche ai bambini poveri, abbandonati, anche a molti orfani. Nel frattempo però su questa sua prima creatura, cioè questa famiglia religiosa, arriva, possiamo dire, il sigillo di Dio ed è l'approvazione della Chiesa locale alla fondazione. E lui, incamminatosi, possiamo dire ben presto, sulla via stretta della povertà, per imitare Gesù, il suo maestro, e dedicarsi agli ultimi, Don Luigi Maria Palazzolo decide di farsi ancora più poverissimo. Abbiamo visto che già nel 1862, dopo la morte della mamma, aveva compiuto un gesto praticamente totale di spogliazione, quindi lasciando la sua casa e tutti i suoi comfort che aveva per andare a vivere in una piccola abitazione spoglia e povera nel vicolo della Foppa e poter condividere proprio la vita con loro, con gli ultimi, che lì vivevano, in particolare con i giovani più abbandonati. Ma ora fa un passo in più. Successe che alla fine del giugno del 1869 lui è a Roma, ospite dei padri gesuiti, per vivere l'esperienza di un corso di esercizi spirituali. Ebbene, proprio in quei giorni, Gesù gli si svela in modo chiarissimo e in modo particolare. E già al termine del primo giorno di questi esercizi spirituali, in lui nasce il desiderio forte di spogliarsi anche di quel poco che aveva, perché il resto lo aveva già donato. Desiderio che però convive con timori, con apprensioni, cioè staccarsi anche da quel poco, anche se era diciamo davvero pochissimo quello che aveva, era comunque per lui una piccola sicurezza. Ecco, Gesù gli chiedeva in quei giorni di abbandonarsi totalmente alla provvidenza, quindi di vivere senza nulla, ma affidandosi completamente soltanto a lui. E lui scrive così. Lo vive naturalmente con un po' di timore questa cosa, cioè umanamente è comprensibile. Scrive, ho visto come buona cosa, e ho anche sentito inclinazione, ma anche una conforte apprensione o timore, che io mi spogli di tutte le di tutte, quelle poche che aveva, abbandonandole per oratorio, per Dorotee e per orfanelli. Se fossi certo che ci vuol questo per piacere al mio Gesù, è certo che lo farei subito con la sua grazia. In questo ebbi passato la notte nella quale non ho dormito il mio solito e sono stato molto tempo svegliato e agitato dolcemente da questi pensieri. Mi si presentò il mio desiderio di spogliarmi di tutto completamente come una grazia, un favore singolarissimo del Signore di cui ne sono indegno. Grande agitazione nel cuore, ma avendo parlato col mio direttore spirituale mi sentì quieto e sono deciso per il sì. Passeggiando nel giardino mi sentì grande consolazione nel seguire Gesù ignudo e questo mentre appunto pensavo alla mia decisione. Viva la povertà! Sentì desiderio di imparare e mettere in pratica la mansuetudine verso il prossimo. Sentì amore alla povertà, sentì desiderio di essere disprezzato, soffrire con pazienza, soffrire le malattie senza lamenti, non difendermi dalle calunnie. Ho sentito consolazione nel desiderio di spogliarmi di tutto per Gesù. Farò quello che Dio vorrà. E proprio il suo primo biografo, che lo conobbe personalmente, commenta così questo evento. Non fu dunque il sì alla povertà frutto di naturale inclinazione, perché aveva comunque qualche timore a lasciare quelle piccole cose che gli erano rimaste, ma lui dice fu puro atto di amore di Dio, perché considerando egli il suo Gesù, prendendo ignudo da una croce, da questo pensiero si sentì spinto ad amare con Gesù la sua croce e la sua nudità. Da questo pensiero trasse la forza a vincere tutte le ripugnanze della natura. Se quella stessa nudità e povertà gli fu cara e ne parve gioire e talvolta compiacersene, era l'esuberanza di quell'amore al suo Gesù, che spandendosi anche sul cuore, gli faceva gustare la povertà perché lo rendeva somigliante al suo amato Signore, come San Paolo che esclamava, «Non mi glorio di nessun'altra cosa se non della croce di nostro Signore Gesù Cristo». E così il 4 ottobre, siamo a qualche anno dopo, del 1872, Don Luigi fonda anche i Fratelli della Santa Famiglia per l'assistenza agli orfani, ai ragazzi orfani oppure abbandonati, stabilendo una sede a Torre Boldone, vicino a Bergamo. Questo istituto purtroppo si estinguerà molti anni dopo, nel 1928. Ma tornando a quel giorno, il suo biografo scrive, era il 4 ottobre 1872, sacro a San Francesco, grande eroe della povertà evangelica, Il Palazzolo partì coi tre fratelli da Torre Boldone. I tre fratelli erano quelli della Santa Famiglia per l'assistenza agli orfani. Partì con tre fratelli da Torre Boldone in Calesse per recarsi a Martinengo. Per strada non si fece quasi altro che pregare e discorrere di cose spirituali. Giunti colà, il padre e i due fratelli fecero la loro professione nelle mani di Monsignor Valsecchi, il quale tenne un discorso intorno a San Francesco ed alla povertà. Discorso così forte e commovente che fu un'ultima spinta per il Palazzolo a gettarsi in braccio alla più assoluta povertà. Fu allora che, tornato a casa, si pose a rintracciare quanto vi rimanesse ancora, che sentisse anche da lontano, non diciamo di lusso, ma anche solo di superfluo, tutto vendendo, spogliandosi di tutto. Penetrato poi dalla forza di quel discorso, sentì rossore di se stesso per essere andato colà in carrozza e volle rifare nel ritorno tutta la strada a piedi. Pensate che era già molto ammalato, eh? Il viaggio era lungo un 20 chilometri circa, il tempo scuro e nuvoloso, ma a piedi si avviò coi nuovi fratelli. Usciti quasi appena dalla casa, cominciò una pioggia di rotta. Le strade erano quasi impraticabili. Il povero Don Luigi a stento si reggeva in piedi, appoggiandosi al braccio ora di uno, ora dell'altro di quei suoi due figli. Ma la gioia pareva raddoppiargli le forze. Per tutto quel lungo viaggio continuò, nei punti più solitari, a cantare inni e salmi, anche se era sfinito, e ad ogni tratto poi con ferventi giaculatorie ringraziava il Dio della grazia ricevuta. Giunto infine a Torre Boldone, entrando in casa, intonò lietamente il Benedictus e poi il Laudate Dominum. E proprio quell'amore, cari amici, a Gesù povero, lo aveva praticamente conformato al suo Signore, al suo Divin Maestro, un amore vero che abbracciava totalmente Gesù, proprio cuore a cuore in un'unità unica, un'unità di intensi, e questo lo portava addirittura a volte a commuoversi. E come Gesù non aveva dove posare il capo, anche Don Luigi Maria praticamente era la stessa cosa. A questo proposito dice Don Bernardino Gavazzini, che abbiamo letto poco fa, dice: non più un materasso sul letto, non più un divano, ma panche di legno. Non portò da allora in poi altro che camicie di canapa grossolana. Era sua abitudine quotidiana pranzare in cucina su rozza tavola, mangiare una minestra in una scodella di terra, poi polenta e poca e magra pietanza. L'ho sempre visto vestire abiti usati e la sua camera, come tutta la casa, era arredata poverissimamente. E dice il suo biografo: rinunciato a favore dei suoi istituti tutto il suo, non so, quindi totalmente tutto aveva dato, non solo si ridusse quanto al vitto, cioè al cibo, al vestito e alla casa, dandosi alla povertà più squallida, dice il Castellazzi, Don Castellazzi, ma anche quel poco che usava, perché necessario alla vita, professava ad averlo non altrimenti che per carità. Quindi praticamente erano i doni che, diciamo, gli abitanti, i fedeli, gli portavano. Viveva continuamente alla presenza di Dio, continua la sua testimonianza di Don Castellazzi, il suo biografo. La sua conversazione era più in cielo che in terra. Egli non solo pregava, ma andava immergendosi nel pensiero di Dio, delle sue perfezioni, del suo amore. Si vedeva in lui sempre l'uomo di Dio, che non ha altri che Gesù nella mente e nel cuore, che a lui volge tutti i pensieri, gli affetti, a lui indirizza tutte le azioni. E parlando dell'ultima sua malattia e della sua morte, qui la spiega, vediamo in quanta povertà egli morisse. E il paragone tra quel figlio di agiata famiglia, allevato tra gli agi di una casa signorile, e questo povero prete, che bella questa frase, che fra i dolori, questo povero prete, che oggi fra i dolori di una malattia spasmodica, infatti lui aveva addirittura contratto un'infezione alla pelle che aveva praticamente gli aveva fatto del corpo una piaga, oltre a soffrire anche di cuore. Quindi, che fra i dolori di una malattia spasmodica è costretto a lottare anche con le privazioni della povertà, la più misera, e a stendere la mano e cercare qualche cosa per procurarsi le medicine e anche il sostentamento conveniente, e muore invece sopra poca paglia in una misera stanza. Questo ci mostrerà con l'eloquenza dei fatti la povertà eroica del Palazzolo, che nel corso della sua vita consumò in servizio dei poveri, oltre a tutte le rendite del suo patrimonio e ai proventi del ministero sacerdotale, una sostanza di 200.000 lire, una cosa enorme allora, giungendo a rendere il contraccambio più completo che sia mai possibile a colui, a Gesù, che essendo ricco si è fatto per noi bisognoso. E il nostro Beato accoglie tutto nella preghiera, una preghiera di grande fiducia, in modo particolare dicevamo verso la Madonna, la sua mamma, era un abbraccio di tenerezza particolarissima, e questo gli illuminava il cuore, e ancor di più cresceva nell'umiltà, nella docilità al volere di Dio. E passano gli anni con una vita donata ai fratelli e con tanta gioia nel cuore, ma anche debilitato nel fisico. Eppure, anche se ammalato, la sua presenza, cari amici, mite e amorosa, aiuta le figlie nel cammino. E scrive Don Castellazzo, il suo biografo, lo scorgere anche una piccola mancanza di povertà in una casa, o il vedere una suora, o peggio, una sua superiora, allontanarsi anche minimamente dallo spirito dell'istituto e dedicare le sue cure ad altri, fuorché ai poveri, lo avviliva più assai che il vedersi nella più assoluta miseria e privo di tutto. E infatti lui supplica le sue suore a rimanere fedeli al dono dello spirito, raccomandava in particolare a una sua superiora: «E tu, buona madre, fa bene, sii umile, ferma, dolce e severa, obbediente e zelante delle regole e dello spirito nostro. Ti raccomando di stare al tuo posto in tutto e con tutti, non piegarti ad altri spiriti, cioè allo spirito del mondo, ma stai legata al nostro spirito». E lui, il nostro Beato, non si stanca mai di richiamare, dicevamo, il vero spirito di povertà e anche di confidenza in Dio, di non avere timore. La confidenza in Dio è la base sicura per conservare la costante fedeltà. E dice a Madre Gabrieli, che poi, appunto, dicevamo, la cofondatrice, futura serva di Dio: «Seguita nella tua confidenza in Dio e non avere paura. Sii buona. E per parte tua fa di tutto perché le orfanelle e le suore siano buone e conservino lo spirito dell'istituzione, e poi lascia fare a Dio, che non ci mancherà il necessario. Il superfluo non è necessario e non lo dobbiamo cercare. Madre, conserva lo spirito della casa e non lasciarti smuovere, mai. Se noi ci allontaniamo dai poveri, guai, siamo per i poveri, ed anche le tribolazioni che talvolta Dio ci favorisce sono proprio tribolazioni dei poveri. Dunque Dio ci vuole poveri. Viva la povertà vera, universale, che ci assicura il paradiso». E continua: «Siano ben persuase le suore delle poverelle che dovranno avvolgersi continuamente fra le povere e amarle. Ogni suora delle poverelle preghi Dio che le conceda spirito di madre verso le povere». Ed è così. Il nostro carissimo e amatissimo Don Luigi Maria Palazzolo, dopo aver donato totalmente la sua vita per i fratelli, muore il 15 giugno, dopo una lunga malattia, il 15 giugno 1886, a 59 anni, relativamente giovane, e viene sepolto nel cimitero di San Giorgio a Bergamo. Anni dopo, nel 1904, la salma è traslata nella chiesa principale della casa madre dell'istituto. ma un prete santo, possiamo dire. Alcuni anni prima, era Monsignor Valsecchi, il vescovo ausiliare di Bergamo, in una lettera del 1875 al vescovo di Vicenza ci offre questo splendido ritratto di Don Palazzolo. Scrive al vescovo di Vicenza perché il vescovo di Vicenza voleva capire, avere una conferma sicura di chi fosse il nostro beato, perché anche a Vicenza voleva aprire una delle sue case, quindi prima di fare questa chiamata voleva avere una conferma. E Monsignor Valsecchi, che appunto dicevamo il vescovo ausiliare di Bergamo, scrive così a quello di Vicenza: Eccellenza Reverendissima, mi reco a dovere di porgere la seguente testimonianza. Il sacerdote di Bergamo, Don Luigi Palazzolo, è uno dei sacerdoti più esemplari, più zelanti, più utili di questa diocesi. Non è uomo di particolare genio e di grande letteratura, ma è santo. Ha un dono particolare per tirare a Dio i fanciulli e amore straordinario alla povertà. Da ricco si è fatto povero, vive poverissimamente e spende e spande quanto può per i poverelli e per le poverelle. Chi scrive queste cose lo conosce assai bene, perché se l'ebbe discepolo e quasi figlio, fin dalla sua prima fanciullezza, ora ne ammira lo zelo, le opere, la vita. Se la eminenza vostra vorrà farne esperienza, credo che troverà più di quello che io scrivo. Nel frattempo, dal fondatore, la fiaccola dello spirito passa alla cofondatrice, la serva di Dio, Madre Gabrieli, sopravvissuta per ben 22 anni al nostro beato, ne continua l'opera conservandone pienamente il carisma. Nei 39 anni che fu madre generale dell'istituto, lo governò con fortezza e con una saggezza incomparabile, con zelo illuminato e con un'ardente carità, vera madre dei poveri e abbandonati. È proprio Madre Teresa che adesso il testimone e lo porta avanti in modo meraviglioso, non si stanca di raccomandare alle sue suore di vivere questo cammino e dice loro: conserviamo lo spirito, cerchiamo di mettere in pratica adesso quello che il fondatore tanto ci predicava, l'umiltà, l'obbedienza, la carità tra noi e col prossimo e lo spirito di povertà e di sincerità. E tutto questo, dice, non solo ce lo predicava, ma ci ha lasciato un eroico esempio, perché lui era eroico in tutte queste virtù. Nel frattempo, le suore delle poverelle vanno espandendosi, aprendo varie case, prima a Bergamo, poi in provincia, poi a Vicenza, poi a Brescia, e nei decenni successivi svolgono il loro servizio nei campi dell'educazione, dell'assistenza, del conforto agli ammalati, ma anche in altri paesi, non solo in Italia, quindi in Europa, in Africa e in America Latina. Ma io vorrei però sottolineare questa cosa, e lo faccio con piacere. Madre Teresa Gabrieli diceva alle sue suore, viviamo, cerchiamo di mettere in pratica quello che il fondatore ci ha detto, lasciandoci, lei ha detto, un eroico esempio, e quindi anche noi dobbiamo essere così. Ebbene, in occasione dell'epidemia del virus di Ebola, lo ricordiamo, terribile, che si verificò nel maggio del 1995 a Kikwit, nel Congo, pensate che alcuni ammalati di Ebola furono ospitati presso un ospedale diretto proprio dalle suore, da queste suore, delle poverelle della fondazione del Beato Palazzolo. Pensate, le religiose continuarono la loro opera di aiuto, di assistenza a questi ammalati, perché non potevano lasciarli sulla strada, anche quando seppero che il contagio era praticamente quasi inevitabile. Ve la faccio breve: 6 di loro contrassero l'Ebola e morirono. Questo è un martirio vero. Proprio hanno donato letteralmente la vita per i fratelli, sapendo di farlo. Quindi veramente l'esempio del Beato Perazzolo e l'esempio della serva di Dio Teresa Gabrieli sono stati pienamente fatti proprio dalle loro figlie, che l'hanno dimostrato con la vita. E andiamo al 31 gennaio 1913, quando viene introdotta la causa di beatificazione per il nostro Luigi Maria Palazzolo, causa che ha il suo epilogo il 19 marzo 1963, giorno di San Giuseppe. Dico fra parentesi che il Palazzolo era devotissimo di San Giuseppe, al quale affidava tutti i suoi problemi, soprattutto quelli economici, perché ce n'erano tantissimi. Dicevamo, a questo epilogo felice, il 19 marzo del 1963, da Papa Giovanni XXIII. Questo santo Papa era, sapete che era di sotto il monte, quindi conosceva bene la figura del Beato Palazzolo e lo stimava tantissimo, anche lui era un devoto del Beato Palazzolo. E il Papa quel giorno disse così, il giorno della sua beatificazione, riferendosi a Luigi Maria Palazzolo disse: «Questo è l'uomo che la Chiesa propone all'imitazione del clero e del popolo. Vissuto 59 anni appena, uscito raramente dai confini della sua diocesi e soltanto per motivi di carità. Rampolo di famiglia distinta, datosi con determinata preferenza alla causa dei diseredati, dei più miserabili, vero imitatore di San Giuseppe Benedetto Cotolengo». E la sintesi della sua vita sacerdotale sta tutta in quella frase della quale racchiude il carisma del suo istituto. Lui dice: «Io cerco e raccolgo il rifiuto degli altri», cioè quelli che gli altri rifiutano, e quanti erano quei ragazzi e quelle ragazze, «perché dice, dove altri provvede, lo fa assai meglio di quello che faccio io, ma dove altri non può giungere, cioè dove ci sono gli altri che vengono lasciati, cerco di fare qualcosa io come posso».